La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui diretta dagli studi di Milano alle 16.31, primi 44 secondi. Oscar Giannino torna a salutarvi, se non lo avete già ascoltato vi saluta, ma insomma lo sapete che da lunedì scorso, anche da lunedì al venerdì tutte le mattine, dalle 8:15 alle 9 con Alessandro Milan, siamo attenti a noi due. Grazie di ascoltarci, di scaricarci in podcast, e andiamo subito in questo inizio di settimana all'argomento della giornata. In questo 12 di ottobre molto probabilmente molti di voi non avranno potuto fare a meno di notare, visto il battage che è in corso sui media, sui giornali, nelle città, eccetera eccetera, siamo alla quotazione di Poste Italiane. E quindi ne approfittiamo in questa giornata per porci alcuni problemi. Devo dire la verità, non sono molto sorpreso del fatto che sui media non trovate praticamente dubbi esposti sull'operazione. Oggi sulla stampa italiana qualche, diciamo, timido e modesto dubbio viene comunque avanzato proprio dalla stampa di Torino, in un articolo firmato da Francesco Manacorda. Per il resto è un gran battage, si sprecano i titoli e i toni esaltatori, gigante italiano. Naturalmente noi siamo qua per invece interrogarci sulle modalità seguite in questa quotazione in borsa, che naturalmente viene spacciata per privatizzazione, ma non lo è, perché non c'è la minima intenzione di cedere il controllo di Poste. Si quota in borsa l'equivalente di poco meno del 40% del suo capitale. A fine settimana scorsa si è stabilita la forbice del prezzo, un prezzo che ha visto deluse le aspettative del MELF e del governo, che puntavano a una valorizzazione globale di Poste Italiane SpA verso gli 11 miliardi. Si devono accontentare di un decimo in meno, quindi di una forbice di prezzo che non arriva a superare gli 8 euro come speravano. Detto tutto questo, il problema è capire: quotare Poste così com'è, adesso vi ricorderemo che cos'è davvero Poste Italiane, è una cosa buona per gli italiani come contribuenti, come cittadini, per i dipendenti attuali di Poste? Oppure quotarla così com'è in realtà non è una cosa molto buona, alla luce di quello che avremmo dovuto imparare dalle privatizzazioni dall'inizio degli anni 90 in poi? Ve lo ricordate il famoso dibattito: abbiamo privatizzato per far cassa e non per aprire il mercato, col risultato che abbiamo trasferito monopoli privati, oligopoli, monopoli pubblici, oligopoli pubblici a privati? Il famoso dibattito sembra che non sia mai avvenuto, tenuto conto che nel caso di Poste si quotano tutte insieme attività molto diverse. Allora, ricordiamo un pochino di numeri di Poste. Nel bilancio 2014, chiuso a oltre 29 miliardi di fatturato, l'attività del vecchio servizio universale, cioè le consegne, vale un settimo del fatturato ed è in perdita, è in contrazione da anni ed è in perdita sistematica, come è ovvio. E invece da dove viene ben oltre il 70% del fatturato? Viene dai servizi finanziari e dalle assicurazioni, che fanno il più non solo del fatturato, ma che fanno tutto l'utile di Poste Italiane. Stiamo parlando per la sola parte assicurativa di qualche cosa che raccoglie oltre 15 miliardi di euro di premi l'anno, ecco, per intenderci. Poi Poste è, oltre a prodotti finanziari e assicurativi, e anche tante altre cose. Una microcompagnia aerea che è stata chiamata dal governo a entrare in all'Italia e ci ha rimesso un mucchio di soldi, tanto per essere chiari. Un grande operatore virtuale della telefonia con milioni di schede tra prepagate e ricaricabili. servizi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, e Poste è naturalmente il tutto incardinato in 13.000 e oltre agenzie territoriali. La rete territoriale di Poste è la vera grande ricchezza di Poste, costruita nei decenni, ed è una rete attraverso la quale passano i servizi universali e sussidiati dallo Stato, quelli che perdono, passa il piazzamento dei prodotti finanziari e assicurativi, le tessere telefoniche, di tutto. Allora, siccome voi leggerete che sono solo cose positive, queste collegate alla quotazione di borsa, e vi invoglieranno a sottoscrivere, ricordo a tutti che la sottoscrizione potete chiederla in banca, potete chiederla negli uffici postali di cui trovate l'elenco se andate sul sito delle Poste. Il lotto minimo per partecipare alla quota dedicata ai risparmiatori retail, che è un 30% di questo 40% del capitale della società, equivale a un investimento minimo, visto la forbice del prezzo, la quotazione, intorno a 3.600 euro, e poi si procede per multipli superiori, quindi ho 500 azioni come minimo, o 2.000, e poi c'è la cosa superiore, 5.000. Una quota della quotazione dei titoli che verranno quotati in borsa, il 3,3% è dedicato, è riservato anche ai dipendenti di Poste, che possono aderire con una quota più bassa di quella degli altri investitori retail del mercato, perché bastano 100 titoli per aderire. Se andiamo a vedere la valutazione complessiva, già dovreste capire che c'è qualche problemino, perché se una società che ha un fatturato, cioè ricavi, per 29 miliardi non arriva a 10 miliardi di quotazione, e se soprattutto, malgrado l'enorme quantità di ricavi e di utili fatti dell'attività finanziaria e assicurativa, ha chiuso il bilancio del 2014 con un utile netto in calo del 79% rispetto al 2013, un utile netto che si è attestato su 212 milioni di euro con un risultato operativo di 691 milioni, dovreste capire che già c'è qualcosa che non va. Ma c'è molto più che questo, perché in realtà la contrazione dell'utile e del risultato operativo deriva appunto dalle perdite in Alitalia e da altre cose. La questione di fondo è: cosa ci insegna la privatizzazione delle altre Poste nei grandi paesi europei, in Germania, in Gran Bretagna, in Olanda? Erano tutti gruppi integrati come questo. Hanno fatto così come stiamo facendo noi anche gli altri paesi? Cioè hanno quotato insieme, addirittura in quella tedesca c'erano la telefonia, banca e assicurazioni e le Poste, e i tedeschi non hanno quotato tutto insieme, i britannici hanno separato da prima le attività bancarie e assicurative. A quotare tutto insieme siamo solo noi, e in questo gruppo, di cui i privati non avranno mai il controllo, fine dell'introduzione, voi però tutti comparteciperete, se comprerete i titoli, a delle belle rendite, perché le attività dell'ex servizio universale continueranno a essere sussidiate dallo Stato per miliardi ogni anno, perché lo Stato darà circa un miliardo di euro l'anno per riequilibrare i conti dei post telegrafonici, dei dipendenti, perché ovviamente le attività bancarie, finanziarie, telefoniche eccetera continueranno a insistere sulla rete, e quindi c'è una bella mancanza di rispetto per la concorrenza, per i diretti concorrenti di Poste italiane, perché le attività quindi di mercato e concorrenziali continueranno a godere del sostegno, del sussidio, e così via. Oltretutto, tanto per aggiungere un po' di premio per il controllo pubblico, si è fatta una bella ricontrattazione del contratto di servizio che lega Poste a Cassa Depositi e Prestiti. Sapete che Cassa Depositi e Prestiti prende Risparmio Portale, lo impiega, è stata aumentata a Poste prima della quotazione la remunerazione da parte a Cassa Depositi e Prestiti, e ciliegina sulla torta, nei prossimi due anni Poste ha deciso un payout, cioè di pagare dividendi rispetto all'utile netto, quasi pari al 90%. Come dire, auguri a chi se la compra, perché effettivamente vi stanno ingolosendo. Però, discutiamo i però. Allora, siccome comunque non è che i dubbi che c'ho io, contino qualcosa, visto che il governo non ci ha ascoltato dai tempi di Letta quando si decise di quotarla, e invece si è andate avanti così. E vi dicono sui giornali italiani che è strepitoso, è un campione nazionale, grande successo. Allora, abbiamo con noi il professor Carlo Scarpa, che insegna economia all'Università di Brescia. Buon pomeriggio e grazie, professor Scarpa. Buon pomeriggio a tutti. Posso chiederle perché chi ha invano chiesto di separare le attività di Poste e liberalizzare appare come un, mi sento io, un povero cretino? Ecco, io, però probabilmente era tutto sbagliata l'analisi che ho qui sintetizzato. Lei come la pensa? È stato bene quotarla così? Direbbe comprate perché c'è la garanzia di Stato sul risparmio postale e quindi si faranno begli utili e chi se ne frega la concorrenza? Che pensa in definitiva? Penso che sicuramente chi acquista acquista un gruppo che al proprio interno ha tante attività molto redditizie. Penso allo stesso modo che tutto questo viene costruito alle spese dei consumatori e in qualche modo anche dei concorrenti. Sicuramente della concorrenza in questo settore, che sicuramente non è un settore, come dire, vibrante quanto può essere quello delle telecomunicazioni o quello dell'energia, per carità, stiamo parlando di un settore in declino storico. Però, qui la fermo, negli altri grandi paesi europei, 15 anni fa, 10 anni fa, quando iniziò lo spacchettamento delle vecchie poste, proprio perché le vecchie poste decadevano, perché le buste non funzionavano più, abbiamo casi, quello tedesco e quello olandese, delle vecchie poste che sono diventati dei giganti mondiali della logistica, quindi non è che fossero condannate solo a morire. No, assolutamente, è il servizio tradizionale della consegna della posta ordinaria che sostanzialmente è in declino, tra l'altro in Italia più di quanto non sia in altri paesi, però tutto quanto è consegna di altri pacchi vede infatti Poste Italiane competere con altri soggetti, per cui ci sono dei privati che vogliono entrare e che sono entrati, se entrano è perché fanno dei profitti, per cui non vedo per quale ragione Poste Italiane debba perdere dove altri invece stanno facendo dei profitti. Questo è un grosso interrogativo al quale francamente grandi risposte non ho vista. No, ma soprattutto io mi metto nei panni delle banche e delle altre assicurazioni, cioè quando l'attività di Poste Italiane quotate resterà a vedere concorrenza finanziaria, la licenza bancaria non ce l'ha, è assicurativa rispetto ad altri gruppi privati che non hanno la garanzia di Stato sulla raccolta del risparmio che ha Poste, ma perché l'antitrust non dovrebbe dire niente su questo? Antitrust non dice nulla perché c'è un mandato politico abbastanza stretto. Ah, ecco. Un mandato politico al quale l'Agicom si è assolutamente adeguata, vedremo se l'antitrust continuerà a latitare, però sicuramente c'è un problema pesante di concorrenza, non dico sleale, però sicuramente pesantemente asimmetrica. Il contratto dei bancari è una cosa, il contratto dei postali è un'altra, e qui c'è un soggetto che utilizzando forza lavoro pagata sul contratto delle poste di fatto fa attività bancaria, quindi attenzione, perché giustamente gli istituti di credito qualche questione l'hanno posta ripetutamente senza peraltro ottenere grandi risposte. Senta, lei lo sa che l'obiezione che veniva contrapposta a chi come lei proponeva lo spacchettamento e la liberalizzazione era questa, e ce ne occuperemo nella seconda parte della trasmissione. Cari signori, voi proponete lo spacchettamento, ma vi dimenticate una cosa: poiché sta tutto incardinato nelle oltre 13.000 agenzie, cioè nella rete territoriale di Poste, lì non è che si può distinguere molto facilmente chi fa parte delle attività di mercato concorrenziale e chi fa parte della vecchia attività di servizio universale sussidiata pesantemente dallo Stato. Quindi, siccome non si può separare, tant'è vero che le assicurazioni delle poste dichiarano solo 300 dipendenti su un totale di 136.000 e la parte strettamente finanziaria non arriva a 1.000 su 136.000, ci veniva risposto: la vostra cosa è impraticabile inspiegabile, una cosa teorica dei soliti sostenitori del liberismo d'accatto, delle regole concorrenziali del mercato che non stanno né in cielo né in terra. Naturalmente negli altri grandi paesi che lo hanno fatto, in Germania è stato possibile, qua questa è la risposta che ci è stata riservata. Che fondamenti aveva chi obiettava in quel modo? Le faccio presente che, per esempio, con sorpresa di molte, Passera è contrarissimo alla quotazione in borsa addirittura, altro che alla privatizzazione di Poste. Come mai, secondo lei? Ah, la posizione di Passera non la conosco. Il problema è che è difficile rispondere a questa domanda fin quando non c'è chiarezza sui costi. Cioè, si dice Poste svolge un servizio che in gran parte è servizio universale ed è un servizio che nessuno vorrebbe comunque effettuare. Ma chiedetegli alle private se vogliono fare o meno. Definiamo per una volta il servizio universale, mettiamo a gara questo servizio universale, vediamo se qualcuno è interessato, sì o no, e a quali condizioni. Perché magari potremmo scoprire che c'è qualcuno che è interessato a farlo, quantomeno per farsi pubblicità ed entrare pesantemente nel mercato italiano, sarebbe disposto a farlo magari in condizioni molto meno onerose di quelle che invece adesso vengono imposte di fatto da Poste Italiane. Ma, professor Scarpa, noi continueremo a dirle, ma come vede i governi possono cambiare, essere anche molto innovatori, litigare col sindacato, con la vecchia sinistra, però in Italia continuiamo su questo a sembrare dei lupi che abbaiano alla luna. Lei continui, mi raccomando. Comunque, dopo l'interruzione vediamo invece la questione dall'altro punto di vista, cioè da quella del sindacato, per capire se è contento di questa operazione e se naturalmente vi chiede di sottoscrivere i titoli. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta alle 16:48, primi 53 secondi. Dagli sms che ci arrivano sulla questione delle poste, mi rendo conto dell'attenzione di molti voi ascoltatori, perché vi siete resi conto, alcuni di voi ci segnalano anche i regalini finali che sono avvenuti in queste ultime settimane a Poste prima della quotazione, cioè un'ulteriore protrazione dell'area di monopolio tra quelle che restano al vecchio servizio universale a Poste, per esempio nella consegna degli atti giudiziari, e non si capisce perché, ripeto, noi siamo indietro sull'attuazione delle delibere europee, delle direttive europee sull'apertura al mercato dei servizi postali, e invece gli è stata confermata. Molti di voi hanno visto il recente aumento delle tariffe di consegna postale, un altro bel aiutino. Alcuni si sono anche resi conto del fatto che si è istituito un servizio di consegna rapida che esattamente si sovrappone a uno già aperto alla concorrenza, e in questo caso si fa finta che non sia così. Quindi complimenti, perché devo dire mi date soddisfazione, per così dire, però ripeto, le nostre considerazioni restano totalmente disattese. Ripeto, sono stati paesi non particolarmente sfrenatamente liberisti a separare e liberalizzare le attività dei vecchi grandi gruppi postali conglomerati. La Germania, dove nel gruppo postale c'erano telecomunicazioni, quella che poi diventa Deutsche Telekom, attività bancarie che rileverà Deutsche Bank, e le consegne le hanno spacchettate e fatte diventare tre cose di mercato, e le consegne a quel punto sono diventate un gigante della logistica mondiale, e così via. La quotazione di Royal Mail in Gran Bretagna un anno e mezzo fa è avvenuta solo dopo aver levato la parte finanziaria e dopo aver levato il sussidio che anche in Gran Bretagna andava a integrazione dello sbilancio previdenziale dovuto alle vecchie gestioni previdenziali dei dipendenti. Nel nostro paese invece niente di tutto questo. Però avranno ragione loro. Poi però non ci venissero a dire che non abbiamo imparato le privatizzazioni degli anni 90, perché stiamo trasferendo a privati che non gestiranno parti di rendita pubblica a spese del contribuente italiano, uno, e dei concorrenti bancari e assicurativi di Poste, che troveranno il modo per avere un favore in cambio dal governo. Però noi che paghiamo, e lì zitti e muti, altro che la grande operazione italiana. Francesco da Genova, come la pensa? Dunque, io volevo confermare un po' quello che ha detto riguardo la privatizzazione che è stata effettuata da Deutsche Post, e che in Italia, diciamo, già nei primi anni 2000, quando come amministratore delegato c'era Passera, invece lui cambiò direzione riguardo la logistica, nel senso che sì, spacchettò praticamente la parte pacchi da Poste Italiane e la portò in SDA. Questo secondo me è stato un errore grave, perché comunque, cioè, adesso diciamo in previsione si è visto che un drastico calo, diciamo, della parte lettere, mentre per quanto riguarda la parte, diciamo, della logistica c'è stato un grosso incremento negli ultimi anni, e questo ha fatto calare, diciamo, il profitto per quanto riguarda Poste Italiane. Ma anche perché le dimensioni della logistica, che è uno dei storie del grande ritardo italiano, o si investe tantissimo lì e su scala europea, insomma non solo italiana, oppure finalmente poi capita quello che succede lei, quello che dice lei. In altri paesi come in Olanda e in Germania si è fatta proprio una scelta strategica, cioè non campiamo sulla nostra rete territoriale per raccogliere soldi e piazzare polizze, dobbiamo diventare un'altra cosa. Qui non c'è traccia. Sentiamo Raffaele da Roma come la pensa. Buonasera, caro telegrafico. Ci sono quasi 30.000 cause di ex dipendenti o dipendenti di Poste Italiane che adesso dovrebbero essere alcune risolte, altre ancora in corso, di persone che lamentano contratti irregolari di lavoro e reclamano il post tempo indeterminato. Tutte queste cause, che fine faranno queste cause giudiziarie? Raffaele, quello che le posso dire è che vedrà che nei documenti pubblici, anche per la quotazione, è citata la cosa ed è accresciuto sotto l'attuale management, proprio in vista della quotazione, la messa a riserva di risorse in vista del contenzioso legale. Quindi da questo punto di vista non è che c'è la garanzia, ovviamente, però la disciplina aggiuntiva, in questo caso che si ottiene con la quotazione alla trasparenza, da questo punto di vista migliora le garanzie, non gli fa fare un passo indietro, perché con la quotazione, sia pure in forma di società privata come era prima, già si assumono degli obblighi di trasparenza finanziaria maggiore, quindi c'è poco da scherzare sugli accantonamenti, sia di fronte al contenzioso che per valutazione di rischi, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista mi sentirei di dire che secondo me non solo non cambia nulla, ma al limite ci sarà da appostare risorse maggiori in proporzione alla percentuale di cause vinte o perse. Ecco, questo è quello che dico. Quindi da questo punto di vista mi spiace, perché avevamo un mezzo accordo con sindacalisti di settore per parlare e intervenire. Io ero molto interessato a capire quella che secondo me è un'operazione per loro win-win, per i dipendenti, voglio dire, per i consumatori e per i concorrenti. Io continuo ad avere dubbi, naturalmente siete liberi di sottoscrivere, perché dal punto di vista del payout, di quanto ci guadagnate bene per i prossimi 2 anni, cioè insomma l'80% degli utili, sia pure in contrazione, adesso dovranno aumentare. Naturalmente per me resta un titolo che ha dentro troppe contraddizioni rispetto a che cosa sarebbe stato separandone le attività e scatenando le sue forze vere sul mercato. Posso sbagliarmi, e molti di voi dicono è inutile continuare a criticare se poi fanno altro altrimenti. Io penso invece che le voci critiche servano a questo. Comprate se volete, ma qualche dubbio dovete nutrirlo. Continuate con Radio 24, appuntamento con me domani mattina alle 8:15, poi alle 16:30.